oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno, bentornati a Oltre la crisi parliamone. Siamo qui, come annuncia la sigla, con Francesco Campione. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. E oggi vi anticipo subito il tema, ovvero vogliamo parlare di immigrazione. Diciamo che in parte, come dire, è consono a quello di cui stiamo parlando in questi giorni in radio, in varie trasmissioni, soprattutto di informazione. Qua non ne vogliamo parlare dal punto di vista della cronaca stretta, ne vogliamo parlare da un altro punto di vista, non ne vogliamo parlare dal punto di vista della legislazione, ma sicuramente ci entrerà nei discorsi, insomma. Però vogliamo appunto affrontare un discorso sull'umanità, innanzitutto. Tra l'altro, il 12 di ottobre, vorrei fare anche questo parallelo, era il Columbus Day, che è una delle giornate più celebrate, più partecipate nelle Americhe, in particolar modo negli Stati Uniti, ed è appannaggio ovviamente della comunità italiana che è migrata là nei vari anni e nei vari decenni, e che si stringe attorno a questa giornata per ricreare appunto questo senso di comunità. E siccome questa trasmissione è proprio partita dal concetto di comunità, innanzitutto Francesco, cominciamo prima da quello che può essere il discorso del lutto. Abbiamo visto tante bare in questi giorni e purtroppo sembra che ne vedremo delle altre se continua così l'avvicendarsi di navi o carrette, si può dire meglio, che cercano di approdare alle nostre coste. E è un lutto che non solo coinvolge le persone ovviamente decedute in mare, ma coinvolge soprattutto le famiglie, sia dal punto di vista della perdita di un congiunto, ma anche spesso del fatto che non si sa se lo si è perso o no. Sì. Solitamente dal punto di vista della elaborazione di un lutto, le situazioni tragiche, cioè quando una persona muore in una situazione tragica, solitamente le situazioni tragiche sono potenziali fattori di complicazione di un lutto. Cioè l'ideale per morire non esiste, perché non bisognerebbe morire, ovviamente, però l'ideale per l'elaborazione di un lutto sarebbe morire quando è giusto morire, cioè non prematuramente, non in modo violento, in modo annunciato, sapendo cosa voleva da te, cosa vuole da te dopo che non c'è più quello che non ci darà più. Naturalmente tutto questo salta quando c'è una situazione tragica, traumatica. Quindi in generale credo che si possa dire, dal punto di vista di chi si occupa di lutti come noi o di crisi in generale, che le situazioni in cui si muore tragicamente, come può essere un naufragio come quello di questi giorni a Lampedusa, sono situazioni che complicano i lutti. Poi naturalmente ci sono tutta un'altra serie di problematiche sempre attorno a questi lutti, ma credo che ne parleremo. Sì, esattamente. Una delle problematiche più grosse, mi viene in mente, lo citavamo prima fuori onda, un libro di Gabriele Del Grande, che è colui che ha fondato Fortress Europe, questo libro, la prima parte è dedicata ai padri, inteso come le famiglie, ed è una serie di interviste a persone che attendono invano notizie dei propri figli, che sono partiti con il sogno di un viaggio, di una vita diversa, di una vita migliore, di prospettive nuove, di girare anche il mondo, perché voglio dire, non si capisce perché io possa avere voglia di girare il mondo e conoscere nuovi paesi e un tunisino o un libico o un egiziano non debba avere le stesse esigenze, cioè al di là dei casi di disperazione e di guerra, ma anche proprio il senso del viaggio come scoperta, voglio dire, ne è intrisa la nostra storia. Di altri mondi, certo. Esatto, ne è intrisa la nostra storia. E ci sono appunto questi padri che vivono, queste famiglie che vivono nell'attesa, e quindi forse è ancora più complicato elaborare tutte le fasi del lutto in questo caso, perché ti manca un pezzo. No, ma più che manca un pezzo, cioè, intanto vengono ostacolati certi lutti. cioè sono quei lutti in cui si ha bisogno, per elaborare il lutto, di constatare la materialità della morte, cioè che la morte è avvenuta. Cioè sono, c'è come una specie, da parte nostra c'è come una specie di diffidenza nell'accettare la morte, giustamente, no? Per cui il primo momento di accettazione è quando la realtà, possiamo constatare materialmente la realtà della fine. Per cui tutte le situazioni in cui tu, in cui una persona scompare e tu non hai constatato la materialità della sua morte, sono situazioni in cui il lutto si può bloccare, non che non si elabora, ma si blocca nel, precisamente nella fase che è caratterizzata fondamentalmente dal fatto che tu, la prima cosa che devi fare per elaborare un lutto è metterti in testa che quella cosa lì è avvenuta, quella cosa indesiderabile che è la morte della persona cara è avvenuta, e naturalmente ti facilita l'andare a sbattere contro la materialità, il constatare ti facilita. Naturalmente non riguarda tutti i lutti, perché ci sono altri lutti in cui il rapporto con la persona che non c'è più è meno materiale, più interiorizzato, per cui tu per esempio non hai bisogno di constatare la morte fuori, basta che tu constati che quella persona in qualche modo non ti risponde più, non la puoi più chiamare, e quindi in qualche modo la morte somiglia all'assenza. Cioè ci sono fondamentalmente due tipi di lutti, quelli in cui la morte è una perdita e quelli in cui la morte è un'assenza. Certamente. E io, William, direi che possiamo passare al primo stacco musicale, sì, perché vi annuncio che avremo anche un ospite telefonico che adesso andremo a contattare. Intanto vi annuncio, vi esorto a partecipare a questa trasmissione, perché l'abbiamo appunto creata per coinvolgere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, quindi vi ricordo i numeri di telefono per partecipare: 051 34 64 58 per portare il vostro contributo a voce, insomma, attraverso il telefono, oppure attraverso gli SMS 333 180 94 94. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, I'm never spinning me, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circle you find in the windows of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the pictures hanging in the hallway and the fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Definirlo capolavoro è un eufemismo. Questa è la voce bianca più bella che ci sia, Dusty Springfield, The Windmill of Your Mind. Direi perfettamente a tema con le inquietudini, perché i mulini a vento, il turbinio che c'è all'interno della nostra mente. A te, Francesca, dopo la critica alla mia musica. Willy ci ha estesi veramente, non sappiamo come continuare. Per fortuna abbiamo un ospite al telefono, abbiamo con noi Rovena. Ciao Rovena. Ciao Francesca. Allora, Rovena viene dall'Albania, quindi sei a tutti gli effetti una migrante. Per il momento ancora. Per qualche altro giorno, ma lo sarò per sempre. Esatto, comunico ufficialmente a tutti i nostri ascoltatori e alle ascoltatrici che il 24 di ottobre diventerai ufficialmente cittadina italiana, con tanto di giuramento in comune e quant'altro. Esatto. Quindi la cittadinanza è invitata. E però volevo dirti anche questo, che questa trasmissione qua nasce un po' da una chiacchierata che è nata tra me e te, appunto, su vari aspetti di quello che è la migrazione. Finora con il professor Campione abbiamo parlato di perdita e di lutto nei casi di migrazione, perché ovviamente siamo partiti dalle notizie di Lampedusa, però io all'inizio ho fatto anche un riferimento al fatto che il 12 ottobre appunto era il Columbus Day, e quindi la giornata in cui nelle Americhe gli italiani, la comunità italiana migrante, emigrata, festeggia, diciamo, la sua italianità, se si può dire così, comunque le sue origini, le sue tradizioni, le sue diciamo il mantenimento di ciò che furono. Esattamente, esattamente. E vorrei partire da lì, perché comunque tra i migranti appunto ci sono i vivi, e in questa trasmissione, in questo momento, vorremmo parlare di loro e di quali sono le perdite invece di chi è vivo e di chi continua e cerca di vivere, cerca una vita migliore. Innanzitutto, quali sono i sogni e le aspettative che spingono a intraprendere un viaggio del genere? Ma allora, prima di tutto, infatti, come appunto dicevi tu, partendo dal discorso di Lampedusa, purtroppo non si può non fare riferimento a quelle stragi, a quelle tragedie, perché sono così grosse e così grandi e non si riesce, insomma, a non menzionarle. A me però, che ho avuto un percorso un po' diverso, è sempre premuto, insomma, trovare degli altri spunti, cercare di far prevalere il punto di vista di chi invece emigra, anche non solo dettato da condizioni di guerra oppure di altre tragedie, eccetera. Cioè una migrazione normale, una migrazione che c'è da quando l'uomo è nato e che comunque non corrisponde soltanto all'impossibilità assoluta di rimanere nel territorio dove si è nati, ma corrisponde anche ha una voglia, un desiderio di cambiare la propria vita e di fare delle scelte diverse nella vita. Questo, insomma, non è così difficile da comprendere. Tutt'oggi c'è tantissimo, insomma, anche per un italiano, diciamo un italiano medio, nel senso una persona che comunque non è emigrata, magari in un altro paese, è facile da comprendere anche da un punto di vista di un meridionale che si trasferisce al nord per lavorare, per trovarsi un'altra vita, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è una cosa che a me ha sempre premuto spiegare un po' insomma le persone con cui ho avuto a che fare, con ai miei amici, ai colleghi e a tutte le altre persone, che non si emigra solo per disperazione, ed è giusto che sia così. È giusto che una persona voglia cambiare il corso della propria vita. Noi nasciamo in un posto, in un luogo, e dal momento in cui nasciamo e andiamo avanti, è giusto che noi possiamo decidere del nostro destino. Io credo che questo sia il percorso più importante che una persona possa fare nella vita, quello di comunque dare un percorso alla propria vita, che non sia quello necessariamente quello che ti è stato dettato nel momento in cui sei nato. Cioè, Romena, ti fermo un attimo, che sì, mi fa cenno Francesco che vorrebbe inserirsi in questa cosa. Perfetto, sì. Sì, mi sembra, se facciamo un dialogo mi sembra che vada meglio, perché altrimenti chi ci ascolta un po' si perde. Ok. Allora, la cosa, intanto io sono in quella condizione, io sono siciliano, sono venuto a Bologna nel 67 per studiare e sono rimasto a Bologna. Quindi c'ho due migranti oggi. Quindi non è solo, c'è solo tra un siciliano e un albanese, non credo che ci sia tanta differenza. No, oddio, cambia molto la lingua, sai, sì, i primi anni la lingua, certo, è un ostacolo molto importante. Certamente, però se io ti dico che cosa vanta, cosa bucca, sono merro e cucca, tu non capisci niente lo stesso. Quindi cambia la lingua, ma il problema è che non ci capiscono. Esatto, non ci capiscono. Sì, il problema, esatto, è che non, esatto, ci capiscono. Allora, quello che sottolinei tu e che sottolineava Francesca prima è un punto importantissimo, e cioè si è abituati oggi a legare la migrazione alla tragedia, esatto, della fame, alla tragedia della mancanza di lavoro, alla tragedia della guerra, alla tragedia della persecuzione e così via. In qualche modo all'essere costretti a scappare dalla propria terra. Esatto, cioè come se tu ti puoi muovere solamente, esatto, se in realtà, non puoi vivere nel posto dove stai. In Sicilia ci sono due categorie di siciliani: i siciliani di scoglio e i siciliani di alto mare, no? Sì. Cioè quelli che si abbarbicano alla loro isola, allo scoglio, e che se anche li vogliono cacciare si attaccano allo scoglio ed è difficile che qualcuno li mandi via, e quelli invece che, siccome vedono il mare, si sentono oppressi nell'isola e vogliono partire, no? Ora, secondo me bisogna riuscire, siccome entrambe queste dimensioni sono dimensioni, una antimigratoria e l'altra migratoria, forse bisogna legarli per capire che cosa accade, bisogna legarli a due grandi esigenze dell'uomo. Una è l'esigenza di sicurezza e l'altra è quella della libertà. Cioè, certe volte non si va via, anche se si ha una spinta per andarsene, perché è più rassicurante stare a casa propria. E certe volte invece si va via, anche se si potrebbe rimanere, perché per essere liberi bisogna andare via. Esatto, ma in effetti io non avevo preso in considerazione la questione di sicurezza, nel senso, no, tu perché sei andata via? Perché volevi essere libera o perché ti hanno costretto? Io perché volevo essere libera, esclusivamente perché volevo essere libera. Ah, bene. Solo per quel motivo lì, che è poi il motivo per cui mi dispiace quando spesso quando si parla di emigrazione, insomma, gli argomenti che si portano a favore dell'emigrazione sono poi quelle che vengono legate alle catastrofi, alla però c'è una cosa che collega tutte le migrazioni, e cioè il fatto che uno, partendo, anche se parte per buone ragioni, lascia il suo mondo. Assolutamente. Quindi quello che hanno in comune tutte le migrazioni è che si parte dal proprio mondo e si va in un altro mondo. Esatto. Chi naturalmente parte perché è costretto, parte in condizioni svantaggiate, chi parte perché vuole parte in condizioni avvantaggiate, però in comune hanno quello. Per cui la domanda che sorge spontanea per te è: tu cosa hai perso, cosa hai lasciato quando te ne sei andata? Perché noi è vero che non dobbiamo mai solo parlare delle tragedie, però è anche vero che non dobbiamo far sentire i migranti per tragedia solo degli sfigati. I migranti, per tragedia, sono precisi dal punto di vista dell'abbandono di un mondo e del doversi adattare in un'altra e vivere in un altro mondo. I migranti sono tutti uguali. Esatto, infatti era questo l'altro punto, cioè non è nonostante io comunque sia immigrata in condizioni decisamente più favorevoli, insomma non sono stata mai un'immigrata clandestina né nulla, ma una cosa che mi ha sempre accomunato a tutti gli immigrati che ho conosciuto in vita mia è comunque il senso di aver perso qualcosa, cioè il senso di comunque di aver abbandonato un mondo e dover affrontare un mondo che a differenza, ma indipendentemente da chi da chi viaggia, comunque è difficile affrontare un nuovo mondo che è completamente diverso, perché comunque i migranti vengono sono culture differenti, diciamo il modo di sentire è differente, ma al di là del paese, del luogo, proprio perdi i familiari, gli affetti, perdi insomma tutto il mondo che avevi prima, quindi diciamo che il percorso poi nell'ammortizzare tutto quanto è probabilmente... Ammortizzare non mi piace. ho fatto economia e sono stata inquinata. Ammortizzare proprio. Ho un vocabolario inquinato. No, per un tanatologo ammortizzare no, posso usare io posso usare. Esatto, diciamo fare pace, ecco, con tutto fare quanto. Fare pace mi piace di più. Esatto, probabilmente. Senti, ti interrompo, sì. scusami. Certo. Allora, emerge un altro punto, cioè il punto la diversità. La diversità. Sì. Tu vieni da un certo mondo e vai in un altro mondo, in un mondo diverso. E cambia tutto. Cambia tutto, guardi, proprio questi giorni tra l'altro stavo riflettendo molto su questo fatto, visto che in vista insomma della concessione della cittadinanza stavo ripercorrendo un po' tutto il mio percorso, soprattutto il primo anno è stato quello più importante, è stato quello più difficile in assoluto, e ne stavo anche parlando proprio con gli amici, e il primo anno forse la cosa più terribile era il fatto di non poter sorridere in italiano. Io non ho mai avuto problemi di lingua. Ah, si ride in albanese? Sai come si ride? No, perché io sono così, lo sta facendo. No, ma io come farei a capire che stai ridendo se in albanese ridi in un altro modo? In italiano. Quindi ridi in italiano adesso. Esatto, le cose sono cambiate. Ecco perché ti ho capito. Esatto. No, in verità comunque è una cosa completamente diversa, nonostante per esempio io ricordo al primo anno ero uguale in qualche modo, nel senso comunque io andavo all'università, avevo dei miei coetanei con cui mi rapportavo e tutto quanto, avevo delle amicizie, ma non era uguale, nel senso che è stato comunque un periodo molto difficile di adattamento, anche nel semplicemente cercare di comprendere le battute degli altri, cioè il mondo, che non c'entra niente la lingua, c'entra molto la mentalità, il mondo, l'ambiente, le cose che ti fanno ridere, il ragionamento, tutte queste cose qua sono, cioè l'adattamento è un percorso difficilissimo al di là della situazione in cui ti trovi, insomma non è, cioè comunque tu porti dietro dei tuoi pensieri, un mondo che è tuo, hai sviluppato i pensieri in un certo modo, perché poi la mentalità è molto importante insomma quando ti sposti. È vero che nel caso di tante persone che si spostano, me lo auguro. Ma cos'era la cosa più diversa che hai trovato tra albanesi e siciliani? Non c'è nessuna differenza. ma tra albanesi e bolognesi cosa hai trovato? Oddio, i bolognesi li devo ancora comprendere, li devo ancora conoscere in verità, perché a Bologna poi comunque diciamo che la comunità di fuori sede è numerosa, quindi tu ti sei adattata a Bologna perché non sei mai stata con i bolognesi. Esatto, sì. Un altro punto. No, io vorrei aggiungere un'altra cosa su questo punto qua. Non è quello il motivo dell'adattamento. Io credo che poi alla fine si va alla ricerca di persone che hanno fatto più o meno, cioè che ti possano capire, che hanno fatto più o meno delle esperienze uguali alle tue. Per me, ad esempio, era molto importante l'andare via dalla famiglia. Per me era molto importante. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con la famiglia, quindi non era quello il punto. No, il punto questo era si dice sempre così. Una persona che si sposta a 18 anni, a 19 anni per fare comunque un'esperienza di vita fuori dalla propria famiglia, insomma fuori dal, dalla logica genitori che sono insomma superiori e poi tu sei il figlio e quindi comunque in qualche modo sei sotto il loro cappello. E fuori dal nido vorresti dire. Esatto, quindi fare vabbè, una vita ma tu non sei un'immigrata, dai, lascia stare. Non sei un'immigrata, diciamocelo, tu non sei un'immigrata, sei uno come uno che va a studiare da un'altra parte, non sei un'immigrato, perché un immigrato è un tutto un'altra cosa, no? Io mi sento un immigrato. No? Ma dipende cosa si intende per sentirsi un immigrato. Quello che c'è in comune tra tutti gli immigrati, cioè esatto. Tu dimmi se una cosa ti ha umiliato quando sei arrivata qui. Ah, veramente? C'è un'umiliazione, perché quello che caratterizza fondamentalmente il trovarsi in un mondo di diversi è il fatto che ti umiliano senza accorgersene. Questo ecco, è il punto, esempio, non se, ti umiliano ma non se ne accorgono. Terzo giorno in Italia, un viaggio in treno, parlavo con un ragazzo, questa è una cosa che non dimenticherò mai, parlavo con un ragazzo in treno così non avevo ancora capito di essere un albanese in Italia, insomma nel 1997 era anche il momento più difficile insomma per essere albanese in Italia da quel punto di vista e mi ricordo questa ragazza insomma ha continuato a parlarmi, abbiamo parlato poi alla fine mi ha detto ma tu di dove sei? Io ho detto beh io sono albanese. E ha guardato e mi ha detto, ah ma tu non andare in giro a dire a tutti che sei albanese, perché poi veramente ti prendono per prostituta. Questa è una cosa che io non... Bravissima, ecco, mai. Questo è proprio questo esempio. Ecco, e tu come hai reagito a questo? No, perché... Io ho smesso di parlare di sesso per 2 anni. Benissimo. Ecco, sei di nuovo un'immigrata. Di nuovo sei stata promossa. Beh, ma certo, ecco, per esempio, sì, ecco, se vogliamo proprio parlare di questa cosa. Ecco io l'Albania non era negli anni inizio anni 90 usciva insomma da un regime repressivo comunque terribile eccetera eccetera dove tra l'altro non c'era nemmeno libertà di relazione tra uomo e donna sessuale eccetera eccetera. La mia lotta quando facevo le superiori in Albania, la mia lotta personale chiaramente era quella della liberalizzazione, no, sessuale, cioè io facevo le lotte degli anni 60 e 70 nell'inizio anni 90 preciso come in Sicilia. Esatto, quindi diciamo che ecco, il simbolo era veramente la minigonna, cioè il fatto che io potessi andare in giro con la minigonna eccetera eccetera. Quando sono arrivata in Italia... E quando andavi in giro con la minigonna ti consideravano un albanese in Albania. Esatto, e quindi non l'ho mai più fatto per tantissimi anni, poi sono tornata a farlo perché mi sono liberata da queste cose qua. In ogni caso sì, ecco, poi mi ricordo in un colloquio di lavoro, perché io comunque ho sempre... cioè poi tutti gli immigrati e in questo sono decisamente uguale a tutti gli immigrati, ma lo sono in tutte le cose che ci accomunano, io ci sono, insomma. Comunque ho sempre lavorato, cioè dal primo giorno che sono arrivata in Italia ho sempre lavorato, e in nero chiaramente i primi anni, perché insomma per potermi mantenere, e mi ricordo in un colloquio di lavoro un potenziale datore di lavoro mi aveva detto, beh dai, sì è vero, sei albanese, ma tu hai la fortuna almeno di essere bianca. Auguri. Questo era Willy dal profondo buongiorno della... mamma mia. Esatto, è stato, cioè quando andavo a cercare casa perché dovevo venire all'università a Bologna e appena sentivano il mio accento siculo mi dicevano no perché tu sei siciliano. Quindi sono meglio gli albanesi, perché almeno gli albanesi bianchi, esatto. Ma i siciliani se sono bianchi non li voglio. Beh, se capitavi a me ti chiedevo se mi portavi dei cannoli, visto l'orario. Sì, ho avuto anch'io un'esperienza simile, mi ricordo una ragazza in via Irnerio, stavo cercando un posto letto, lei mi ha detto, ma sì, in effetti forse lo darei a te il posto letto, perché è venuta un'altra ragazza, ma era di Foggia, fa, io gli ho detto, no, sì, ma... Mamma mia, quindi, ma una volta mi è capitato che hanno affittato la camera che io volevo a uno studente nigeriano preferendolo a me che ero siciliano. Vedi, non c'è limite, probabilmente era giusto così. Tra un po' la rifiuteranno a me che abito in via Murri. No, ma adesso non succede più. Adesso non è politicamente corretto. Dai. Senti Willy, adesso vi interrompo perché c'è lo stacco pubblicitario e poi Willy freme per mettere un brano, se no dice cosa mi hai fatto fare regia fare. Eh beh, scusa, non vedo l'ora di mettere musica allegra e felice, quindi adesso vi lascio con due note da questi del Brubeck e Paul Desmond. Pubblicità. Tu resta in linea, Ravenna. Okay, e tu resta in linea, con me sei una radiofonica perfetta. A fra poco. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Torniamo in diretta oltre la crisi alle 13:36 minuti, oltre la crisi con la voce di Anita O'Day ci porta sulla luna Fly Me to the Moon. Questa è andata un po' meglio. Sì, bene, assolutamente. Sono proprio contenta, assolutamente. Ma è anche il tono della nostra trasmissione, ha dei momenti più cupi, dei momenti più discorsivi e più allegri, anche battute, eccetera, poi dopo si torna anche a parlare di cose un po' più cupe. Prima di salutare Rovena, che abbiamo al telefono con noi, vorrei dire una cosa. Voi prima scherzavate sull'essere migrante, non essere migrante, sul fatto che entrambi siete alla fine partiti da una situazione di migrazione, ma si può dire che siete due, passatemi il termine, due migranti risolti, nel senso del successo alla fine del vostro percorso. Quello che è la mia domanda è, per arrivare a questo successo, e questo lo chiedo un attimo a Rovena, che cosa è stato fondamentale per superare le umiliazioni, per superare le difficoltà, per superare il fatto di sentirsi anche diversa? Tu un giorno mi raccontavi che quando tutti i tuoi amici andavano a fare l'Erasmus, tu ovviamente non potevi partire. Anche queste sono umiliazioni, perché comunque ti fanno sentire diversa, ti fanno sentire pecora nera, ti fanno sentire fuori posto. Guarda, pensandoci adesso, probabilmente che è poi il motivo per cui effettivamente mi posso definire un'immigrata, è la possibilità di non ritorno, cioè il fatto che non c'è ritorno indietro. E una volta che hai questa consapevolezza, insomma, non è che non hai più un posto dove tornare, ma sai che è finito, insomma, quel posto non è più tuo, a quel punto ti devi assolutamente fare forza e insomma cercare di migliorare la tua esistenza assolutamente dove sei. Chiaro, a me ha aiutato molto anche il sogno comunque di cambiare la vita e di farla per conto mio in maniera libera, insomma creare delle relazioni al di là della famiglia, che era una cosa che comunque a me non piaceva tantissimo in Albania, insomma tutte queste cose qua, ma probabilmente la cosa più importante è stata proprio la consapevolezza che non c'è un ritorno, non si torna indietro, una volta che si è partiti e a quel punto si deve dare il meglio di sé, insomma. Però ecco, e qui aggiro la domanda a Francesco, la tua consapevolezza di non ritorno l'hai risolta nel dire vado avanti ancora più determinata, però si può risolvere anche in altri modi, attraverso aggressività, attraverso, perché non ho la possibilità del non ritorno ma qua sto male, cioè potrebbe, esatto, esserci, sì, anche certo. No, ma questo scusate, questo è tipico dei migranti risolti, come li chiami tu, no? Passatemi il termine. Che, cioè, secondo me hanno due, no, ma è giustissimo, lo condivido. Hanno fondamentalmente, in tutte le esperienze, hanno due limiti. Ogni risoluzione di un'emigrazione ha due limiti. Cioè, può essere il fatto di non poter tornare, cioè di aver dovuto abbandonare definitivamente il proprio posto, che si attenua naturalmente se tu ti senti a casa tua nel posto nuovo. Io per esempio quando vado in Sicilia non mi sento più a casa mia, adesso mi sento a casa mia a Bologna, quindi io, come dire, questo problema non ce l'ho. Però se uno non ci riesce del tutto a sentirsi a casa sua qui, può avere la nostalgia del ritorno, e questo è un punto. L'altro punto dei migranti è che ti resta sempre come migrante, anche se sei un migrante risolto, no? Un senso di responsabilità in più nei confronti degli altri migranti, no? Esatto. Questo è un altro punto fondamentale, cioè sono due i punti fondamentali, che uno, guarda caso, riguarda il passato, quello che non puoi recuperare, e un altro riguarda il futuro. Arrivano questi migranti, arrivano dei nuovi migranti, arrivano, ecco, per esempio a me per esempio capita quando ogni tanto arriva dal mio paese un ragazzo che viene a studiare come me a Bologna e così eccetera, e siccome magari conosce la mia famiglia eccetera mi telefona, è un perfetto sconosciuto, non so niente di lui, così eccetera, però mi sento un'enorme responsabilità nei confronti di quella persona, no? Perché appunto, cioè come dire, non si chiude in qualche modo il tuo rapporto un po' traumatico con la vicenda dell'emigrazione. Quindi è verissimo, ci sono questi due aspetti, che come uno psicanalista direbbe sono due traumi che non si risolvono mai del tutto, no? Ecco, se posso intervenire, sì, su questa cosa, in effetti, allora, il primo punto potrei dire che l'ho risolto, nel senso, sì, certamente io mi trovo, insomma, a casa mia è Bologna. Casa mia è Bologna, infatti quando mi chiedono torni a casa Natale, torni a casa quest'estate, io a casa sono qua in verità, poi tornerò magari dai miei. Questo, però c'è sempre, probabilmente questo è anche una cosa che, non lo so, penso che non passa mai del tutto, probabilmente, perché ogni volta, insomma, negli ultimi anni io torno spesso in Albania, torno anche per motivi di lavoro, insomma, poi l'Albania ormai è vicina, non è lontanissima come una volta, insomma, tutto è diventato più semplice, diciamo, no? È più difficile per un sardo tornare in Sardegna che per un albanese tornare in Albania oggi. Quindi sì, ecco, non ci penso, mentre magari i primi anni, 10 giorni prima, un mese prima, si iniziava con i sogni, con la felicità, oddio torno a casa, oddio che bello, non a casa, in Albania, no? Cioè, l'ambiente, l'aria è diversa, no? Adesso non è più così. C'è però un momento, il momento in cui si apre il portello dell'aereo, e sembra un momento di oddio, non me ne ero accorta quanto mi era mancato, no? Ed è sempre, insomma, credo che questa sarà una cosa che andrà avanti per sempre. Il punto della responsabilità invece nei confronti degli immigrati qua, quello sì, quello è una cosa ricorrente, tant'è che in qualche modo è la mia lotta quotidiana quella di presentare l'immigrazione, il concetto dell'immigrazione da un altro punto di, cioè dal punto di vista dell'immigrato, e quindi l'immigrato come una persona che comunque mediamente è triste perché ha perso il suo paese, perché al di là di me o magari tante altre persone che comunque alla fine hanno fatto una vita piacevole eccetera eccetera, anche nel posto dove si sono trovati, tantissimi sono venuti solo per lavorare e vivono tutto l'anno nella speranza di tornare quelle due settimane e insomma vivono una vita decisamente più triste, insomma. E l'altra cosa che mi preme sempre dire è che è la normalità dell'altro, nel senso, poi un immigrato è una persona normale, cioè ha gli stessi sogni, vuole vivere, vuole viaggiare, vorrebbe essere felice, tutto qua. Quindi non è vero che siamo così diversi. No, non siamo così diversi. Nella maniera più assoluta, cioè, siamo normali, nel senso, poi ognuno ha fatto delle scelte di vita diverse per necessità o per voglia o altro, ma insomma, a me preme sempre poter raccontare, questo è quello che, insomma, che dicevi tu prima del secondo punto, perché io ne parlo sempre, infatti, con tutti, insomma, un argomento che mi sta molto a cuore, quello di dire, ma cioè, si è normali, no? Appunto, non si deve vedere solo la tragedia, quella è una cosa che io veramente non sopporto, perché per esempio mia madre ha studiato geografia e mi ricordo quando ero piccola, e noi eravamo un paese assolutamente chiuso e quindi tutto il resto del mondo era tutt'uno, no? Mi ricordo che diceva, lei mi parlava del Danubio, del Kilimangiaro, cioè il Danubio, no? Non è possibile percorrerlo per una persona. Infatti, infatti. Rovena, senti, io ti ringrazio tanto per questo tuo intervento, perché ci ha permesso di, come dire, di intavolare una discussione su vari aspetti. Grazie mille. Grazie e ti lasciamo il tuo lavoro. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. E rientriamo in diretta dopo questa telefonata piacevolmente a fiume. Sì, direi di sì. Vuoi mettere un po' di musichina? Questa volta ti propongo qualcosa di molto più energico, che dice l'importante è avere se stessi. Io ricordo il numero di telefono, intanto scusami, 051 346 4458, e per i vostri sms 333 180 94 94. Dicevi del brano? Che è Nina Simone. dinamismo, più forza, più energia. Questa pantera felina Nina Simone, abbiamo ascoltato I Got Life, che è quello importante possedere fondamentalmente. Siamo in studio con i due Franceschi, Campione e Clementoni, per parlare di Oltre la crisi. Oltre la crisi, beh, non solo economica, chiaramente. Vai Francesca. Francesco, abbiamo raccontato una situazione tra virgolette felice o comunque risolta, come dicevamo prima, di migrazione. Una cosa che a me è sempre stupito è che quando si mettono in piedi dei servizi nei confronti dei migranti, sia dal punto di vista dell'associazionismo che anche delle istituzioni, si pensa ovviamente alla lingua, a insegnargli magari a leggere bene, ad approcciare le leggi, le normative, eccetera, eccetera. Non ho mai sentito, forse è una mancanza mia, un approccio più psicologico, di sostegno psicologico e di coinvolgimento psicologico per superare invece quelle crisi che invece l'immigrazione porta. Sono tante e sono potenti. Certo, certo, noi da questo punto di vista nel nostro paese siamo molto arretrati. Per esempio ci sono paesi in cui c'è un'esperienza transculturale più ampia, come in Francia per esempio, dove sono un pochino più avanzati, perché per poter fare qualcosa di psicologico vuol dire potersi rivolgere all'immigrato non per i suoi problemi generali, ma per i suoi problemi particolari di persona, con la sua storia, con la sua individualità, con la sua unicità. Il che vuol dire che bisogna entrare in un altro mondo, saper entrare in un altro mondo, quindi ci vuole una certa preparazione, bisogna sapere da quale mondo quella persona proviene, che cosa vuol dire per esempio quando un immigrato sta male, viene da una cultura in cui quando tu stai male è lo zio morto tre generazioni prima che ti sta facendo star male. E non scambiare per esempio quella cosa lì per una superstizione, come farebbe qualunque psicologo non formato in questo campo. Quindi il primo punto è questo. Il secondo punto è che ostacola l'aiuto psicologico è un punto culturale. Cioè noi, come dire, abbiamo più paura che piacere di accogliere chi viene da noi. Per cui il sentimento dominante di una cultura nei confronti, cioè l'immigrazione per esempio in questo momento, è percepito come un'invasione, è percepito come una tragedia biblica, non è percepito come qualcosa rispetto al quale noi possiamo farci qualcosa. C'è un senso, un enorme senso di impotenza e anche una grande paura. E le nostre culture, per esempio le culture occidentali in generale, no, non dico solo la nostra perché in questo si accomunano tutte, le nostre culture, comprese quelle che hanno una lunga consuetudine con l'immigrazione, sono culture, non culture della integrazione e dell'accoglienza, cioè sono culture che non concepiscono il rapporto col diverso come il rapporto con qualcuno che proprio perché viene da un altro posto, è straniero, ha il diritto di essere accolto, di essere trattato come ospite, cioè meglio di tutti gli altri che ci abitano già, facendo quello che succede per gli che succede di solito con un ospite. Tu a un ospite gli dai la camera migliore, gli prepari il cibo mentre per te non te lo prepari mai e così via. Questo vuol dire ospitare. Il nostro intento non è di ospitare, il nostro intento fondamentalmente, che è proprio tutta una cultura, nasce ed è una lunga tradizione della nostra cultura, è il rapporto difficile e di paura e di persecutorietà che abbiamo con lo straniero. Lo straniero crea inquietudine, crea paura, crea una serie di fantasmi nella mente delle persone. Arriva uno straniero, vuol dire che arriva, tu entri in contatto con forze che non controlli. Suscita delle cose spaventose nella mente delle persone. Ora noi, dato che così è e lo sappiamo, mi verrebbe da dire, quindi non c'è storia per uno straniero. No, quindi ci sarebbe storia se ogni cultura che inevitabilmente, vivendo in un mondo, noi siamo le porte del Mediterraneo e c'è tutta l'Africa alle nostre spalle che si sta muovendo e ci sono migrazioni bibliche, assolutamente inevitabili. Quindi noi non possiamo fare come se potessimo evitarlo. E quindi, come dire, mettere barriere, mettere il radar, contenere, fare in modo che non arrivino, oppure mandarli da altre parti. Arriveranno, inevitabilmente sono già arrivati, è una migrazione biblica che non si può fermare. Allora, se noi prendessimo atto, è un problema di elaborazione, noi ci stiamo elaborando una cosa che è già avvenuta come se potesse essere fermata. No, se ce la elaborassimo per quello che è, come una cosa che non può essere fermata, noi come cultura potremmo fare una cosa che non abbiamo fatto. C'è un problema, un enorme problema educativo nei confronti dello straniero. Quando arriva qualcuno, un bambino diverso in una classe, la maggior parte dei genitori si ribellano. Certuni, c'è stato l'episodio, i genitori che ritirano i bambini dalla scuola, dalla classe, i bambini italiani, perché in quella classe ci sono molti immigrati. Cioè vuol dire che noi abbiamo da fare come cultura un enorme passo di crescita. Non siamo pronti per la migrazione, per accogliere come ospiti, come esseri umani, con quello che dovremmo fare gli immigrati. Noi siamo ancora strutturati come nazioni con i loro confini, che devono tutelare questi confini in modo che lo straniero potenzialmente minaccioso non entri. Non passa lo straniero, dice il nostro inno nazionale. Il nostro inno nazionale dice non passa lo straniero, no? E non è che l'abbiamo abolito, è il nostro inno nazionale. Beh, del resto l'orientamento dell'Italia in genere filosofico, non di voti di persone, si sa quale, no? Paese imperialista, paese colonialista, seppur straccione, rimane però un paese dove si canta non passa lo straniero, purtroppo. Certo, ma però, come dire, è passato quel tempo, non ovviamente. È più quel tempo lì. E adesso è un altro tempo, è il tempo della migrazione, del movimento dell'Africa, che è una cosa estremamente positiva, perché quando i popoli si mescolano, la storia è un mescolone di popoli, quando i popoli si mescolano la genetica, le culture, il DNA, ne viene fuori un qualcosa di estremamente ricco e potente per il futuro. Perché se noi stiamo tutti tra di noi sempre, dopo un po' ci annoiamo a morte e dopo un po' non sappiamo più che cavolo fare. Ci vuole vita nuova, energie nuove, è positivo tutto questo. Viene una generazione incestuosa poi, fra l'altro, perché in effetti il mescolare dei geni non fa altro che rinforzare il futuro delle generazioni. Certamente, però noi non siamo pronti. Allora quello che dovremmo fare, la cosa più urgente non sarebbe per poter poi concepire servizi anche di aiuto individuale e prepararci per quello. Siamo lontanissimi da quello, perché prima dobbiamo fare un'altra cosa, cioè un'operazione culturale complessiva. La cosa più urgente in assoluto è di fare campagne di educazione di massa fin dai bambini, per dire che i diversi sono come noi, che sono meglio di noi se soffrono più di noi, che dobbiamo ospitarli, che vengano a casa nostra, hanno il diritto di venire a casa nostra, perché se sono stati cacciati da qualche parte hanno il diritto, così come noi sapevamo quando andavamo in Germania e ci trattavano come bestie da Soma, che avevamo il diritto di andare in Germania perché andavamo a portare il nostro talento, l'energia, il lavoro, perché avevano bisogno di noi che ci prendevano. Quindi c'è un'operazione culturale che noi non facciamo, e la cosa più, invece di fare questo, mandiamo una task force militare nel Mediterraneo. Esatto. Questo è quello che facciamo. No, è sbagliato. La task force serve a rassicurare, ma non serve a migliorare le cose. Non migliorerà nulla. La cosa che migliorerebbe sarebbe una grande iniziativa di educazione di massa, un'iniziativa culturale per sapere, per scoprire che da qualunque parte viene un essere umano, è sempre un essere umano come noi. Per scoprire che un essere umano, per quanto diverso, tutta questa storia della diversità, sono più le somiglianze che le differenze. Se tu vai a vedere che fa un contadino cinese, fa preciso quello che fa un contadino siciliano. Non c'è nessuna differenza tra un contadino cinese e un contadino siciliano. Nessuna differenza. Cioè sono più le diversità. Allora questo bisogna insegnare, non che arriva il diverso, arriva lo straniero, oddio, dobbiamo capirlo, oddio, un altro. No, quando sorridono sono uguali, quando si danno una pacca sulla spalla sono uguali, se si uccidono sono uguali, nelle cose essenziali tutti gli umani sono uguali. È proprio così. Scusate se mi intrometto e interrompo, ma il tempo è tiranno, ai noi. Possiamo già dare appuntamento alla prossima settimana, ringraziando tantissimo Francesco Campione per il contributo fondamentale. Sono io che vi ringrazio. Allora direi di lanciare la crisi. Francesca, vuoi salutare? Sì, saluto, ringrazio Willy alla regia che ci ha magistralmente assistiti, ringrazio Francesco anch'io e a mercoledì prossimo dalle 1 alle 2. Grazie. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.